for freedom, let's all join hearts. Anni fa, tal Rocky Roberts sopravviveva cantando a squarciagola "Stasera mi butto". Ardiva una metafora, quella del timido innamorato che non aveva avuto ancora il coraggio di dichiararsi, di buttarsi, per l'appunto, e che finalmente se lo proponeva per la serata sopravveniente. Il calco di "Stasera mi butto" viene ripreso oggi dall'AMSA, che dimentica delle pessime figure collezionate fino ad oggi, dopo che è stato scoperto che gli esiti della faticosa raccolta differenziata dei rifiuti finivano tutti nel medesimo calderone. Si riprova a conferire ordinanze ai pazienti milanesi. L'ordinanza da stato autoritario moderno, tuttavia, deve averci un suo stile ridanciano. "Stasera ti butto", allora, riferendosi non alla conquista amatoria, ma a quella conquista delle società del benessere che è il pattume. Packaging, diciamo che si dica così, stracolorato, grafica ondulatoria vomitevole, metafora portata fino alle estreme conseguenze, come un disco nano da cui non esce il microsolco, ma una sottospecie di disco orario ideato da un maniaco della logica aristotelica andata male. Perché, come ogni disco che si rispetti, anche questo disco dell'AMSA ha due facce, il lato del sì e il lato del no. Nel sì si pretende di dire cosa buttare e nel no si pretende di dire cosa non buttare nei contenitori cosiddetti, per l'appunto, differenziati. Il fatto che il disco sia di cartoncino e il perno sul quale ruota sia di plastica già mette in crisi l'intero sistema. Non l'ho potuto buttare nel sacco bianco perché è quello della carta. Non l'ho potuto buttare nel cassonetto verde o rosso, si noti la chiarezza del progetto, o verde o rosso, che sono quelli del vetro e delle lattine, non nel cassonetto grigio, che pure in un'epoca in cui biologico ed artefatti si confondono volentieri, sarebbe quello dei rifiuti organici, non nel sacco giallo, che è quello della plastica, mentre potrebbe forse essere destinato ad un sacco nero, vero refugium peccatorum, che viene definito negativamente come quel sacco in cui dovranno stare tutti i rifiuti non oggetto di raccolta differenziata, e dunque bazooka, carri armati, carcasse d'automobili, neuroni artificiali, finti escrementi per scherzi di carnevale, popolazioni batteriche e via enumerando, lo scibile umano non classificato esplicitamente dall'AMSA. In realtà, a rigor di termini, il dischetto in questione, a mio avviso, non può essere neppure buttato nel sacco nero. Perché, analizzando l'altro lato, quello del no, mi si intima di non buttare nel sacco nero rifiuti pericolosi. E a essere sincero, ad altra categoria non saprei ricorrere per definire questo pasticciato dischetto, che non è pericoloso soltanto per le cattive lezioni epistemologiche che impartisce, perché induce ad una classificazione del mondo assolutamente gratuita e sorretta da criteri contraddittori, e perché semina panico e sgomento laddove ordina che nel sacco giallo trovino posto solo bottiglie schiacciate orizzontalmente, trascurando il fatto che l'orizzontale e il verticale dipendono dal punto di vista assunto dall'osservatore. Ma per le opzioni culturali è pericoloso per le opzioni culturali di cui è espressione e che contribuisce a diffondere. Già il fatto che l'ordinanza non sia come tale, come ordinanza, semplicemente rigorosamente scritta in un manifestino in bianco e in nero, mi mette in sospetto. Vige lo stile ridanciano, dicevo. Semplificavo troppo. C'è la pretesa che un'ordinanza vada ben comunicata e il criterio di bontà relativa sta tutto nella misura in cui questa ordinanza possa venire confusa con tutt'altro. Sia che voglia ricordare di timbrare il biglietto in tram o di pagare una nuova tassa, chi comanda si è ormai abituato ad un particolare iter. Chiama qualcuno che per giustificare il passaggio di denaro si autodefinisce esperto in comunicazioni e lo incarica di trovare la faccia giusta per presentarsi ai suoi interlocutori, una faccia che dovrà essere tanto più amichevole quanto più è pasticciata, ineseguibile e vessatoria l'ordinanza in questione. Nel profluvio di colori, nella grafica illeggibile della postmodernità, nell'ammiccamento allo sa Dio che e nella spiritosità complessiva della comunicazione, rendendo vano qualsiasi tentativo di compressione da parte dell'interlocutore più ben disposto, si ottiene il risultato fondamentale che si desidera ottenere, cioè la mimetizzazione dell'autorità. Guardo con lo stesso sospetto qualsiasi tipo di pubblicità spiritosa. Il fatto che provenga direttamente dal potere economico e non dai suoi manutengoli burocratici non mi sembra che possa esentarla dalle mie considerazioni. Prendete i due grandi manifesti della recente campagna di quell'IKEA che, a quanto si dice, nel rinnovare, diciamo, in senso nordico il nostro concetto troppo meridionale dell'abitare, è riuscita a distribuire non pochi fondi ai movimenti di estrema destra. Prendete questi due manifesti. In uno c'è una fresca coppia di sposi. È come se lui la prendesse tradizionalmente in braccio nel momento in cui stanno per superare la soglia di casa. Ma lei, niente affatto tradizionalmente, è seduta su una poltrona che ha tutto l'aspetto di essere stata appunto acquistata all'IKEA. Risparmiate sull'arredamento, è scritto bene in grande. E sotto, tra parentesi, un giorno potreste aver bisogno di un buon avvocato. Secondo manifesto. Lui e lei sul tandem. Lui davanti che sbuffa e fatica sui pedali. Lei di dietro gioiosa e beata. Sul portapacchi una tonnellata di acquisti fatti all'IKEA. La scritta questa volta dice semplicemente: avete voluto la casa? La logica delle due comunicazioni è ovviamente la stessa. Avete voluto la casa e l'immagine della bicicletta suggeriscono come conclusione: e adesso pedala. Se hai risparmiato sull'arredamento potrai permetterti un buon avvocato, sì, allorché si tratterà di divorziare. Nell'esplicito, cioè, la donna può festeggiare la sua parte di reginetta della casa, ma nell'implicito è confermato in pieno il privilegio del maschio che tanto spiritosamente, per l'appunto, è rappresentato mentre patisce. Un maschio a cui è sempre concesso di dire: stasera ti butto. Standing in the Alpha Beta parking lot, watching the sunset. I'll never forget. Watching all